Siamo all'appuntamento con il cinema. Visionari, la scaletta di quest'oggi la trovate sul sito della radio, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di quest'oggi, le uscite in sala di oggi, giovedì 13 marzo. I nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, l'archivio del 2013 e del 2014. È con noi Patrizia Rapazzo, direttrice della 21esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano. È cominciato il 28 febbraio, proseguirà fino al 23 marzo. Patrizia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno Federico, eccoci qua, 21esima edizione. 21esima edizione. Sì, dicevi, prima abbiamo inaugurato il 28 di febbraio con una mostra, L'arte al tempo della crisi, presso la Triennale di Milano. Poi continuato con l'inaugurazione di un workshop dedicato al cinema, alla storia del cinema al femminile, che percorre un po' la storia dalle pioniere ai nostri giorni, e questa sera inauguriamo invece i concorsi e tutte le altre sezioni in sala allo spazio Oberdam e al cinema Beltrate in collaborazione con la Cineteca. Ecco, è un festival più complessivo rispetto al mondo dell'arte. Noi oggi ci occupiamo in particolare del cinema. Quante opere presenterete al festival? Allora, quest'anno grandissima sorpresa, perché abbiamo avuto una iscrizione veramente massiva, sono arrivati oltre 500 titoli, quindi abbiamo fatto una selezione intorno a un centinaio, abbiamo intorno a un centinaio di titoli, di cui 25 in anteprima italiana e 13 in anteprima assoluta proprio mondiale. Sia film che documentari? Sì, sì, abbiamo sia fiction che documentari. Tra l'altro al documentario è dedicata più di una sezione a concorso che si chiama Le donne raccontano, una sezione tradizionale che ogni anno proprio porta i talenti del documentario internazionale, e poi anche una sezione che si apre anche con titoli di fiction, però ce ne sono parecchi anche documentari, dedicata proprio al cinema italiano. Pollo, hai già cominciato a dire, volevo chiederti un po' com'è strutturata questa sezione cinematografica. Allora, il festival è complesso e tocca temi differenti. Il filo rosso comunque che lo attraversa è la crisi. Era proprio un'idea quella di documentare attraverso il linguaggio del cinema, del documentario, ma anche del cortometraggio naturalmente, quella che è la crisi che l'Europa e in particolare la Grecia sta vivendo. Tanto che abbiamo dedicato un focus proprio dedicato alla Grecia, con titoli significativi che ci raccontano proprio la rinascita, per contro, come se da un lato si assiste a questa crisi dilagante, da un altro lato invece c'è stato proprio un proliferare proprio in termini cinematografici anche di giovanissimi che si sono messi proprio a raccontare quello che sta succedendo nel paese. La stessa cosa per la Spagna, la stessa cosa anche per il Portogallo e anche per l'Italia. Infatti tra i titoli che sono inseriti nelle sezioni di cui dicevo prima ci sono proprio uno per tutti, Pane a vita di Stefano Liberti, che proprio racconta la situazione italiana oggi nelle fabbriche eccetera, quando si pensava che il pane potesse essere in realtà per la vita. Quindi dicevo, allora sono 8 titoli inseriti nella sezione Nuovi Sguardi, esclusivamente a regia femminile. Le 3 sezioni competitive sono esclusivamente regia femminile, quindi lungometraggi, documentari e cortometraggi, tutte e 3 internazionali. Quindi dicevo 8 titoli, di cui 6 sono opere prime in anteprima italiana, e quest'anno abbiamo aperto, andando oltre quelli che sono gli steccati di genere sulla fiction, abbiamo aperto anche nella competizione dei lungometraggi ad un titolo documentario che è Lo splendido viaggio con Cecilia, con cui stasera ne inauguriamo, di Cecilia Mangini e di Angela Barbarente. Tra l'altro sono ambedue un felice ritorno, perché il festival nel 2012 ha dedicato a Cecilia una retrospettiva completa di tutti i suoi lavori, e mentre la Barbarente, della Barbarente abbiamo presentato Sole, che è il suo primo documentario del 2000, quindi di cui a questo punto presentiamo l'ultimo. Ecco Patrizia, poi, proprio scusate ti interrompo, volevo chiederti anche se è prevista la presenza degli autori e autrici. Assolutamente sì, laddove è stato possibile invitarli, perché ricordo che il festival ha appunto un palinsesto, un programma veramente significativo con tanti approfondimenti, però è un festival che vive con pochi fondi e soprattutto è fatto in parte da volontari, per cui sì, abbiamo tante presenze, appunto tra quella Mangini che dicevo, ma anche Sergio Basso, Maite Vittoria De Neris, la loro Lorenza Indovini, Elisabetta Lodoli, l'Olga Malea come una regista spagnola, e poi anche Catherine Muckstein, che è un'autrice austriaca di cui presentiamo il suo primo lungometraggio Talea appunto in concorso, ma anche Fabiana Sargentini che dialogherà con Morando Morandini e Cinzia Masotina in sala per il suo ultimo film, non lo so ancora. Significativo quest'anno è anche l'omaggio che noi abbiamo dedicato a Valeria Golino con una selezione di titoli che attraversano un po' e ricostruiscono un po' la carriera di questa attrice, che ha fatto ben oltre 70 film e ne ha diretti due, lo splendido ultimo Miele. Sì. E infatti Valeria Golino sarà a Milano il 22 sera per chiudere, come dire, no, l'omaggio a lei dedicato, e anche per parlare un po' di regia femminile e anche di che cosa significa, no, mettersi alle prese con una macchina da ripresa dopo tanti anni di attrice, di lavoro attoriale. Oh Patrizia, il programma completo, ci dai dei riferimenti internet per saperne di più? Certo, allora sguardialtrove.it è il nostro sito, là trovate il nostro programma, troverete anche le schede naturalmente di tutti i film per avere così una visione generale di tutto il nostro festival. Volevo ricordare una cosa, sì, l'ultima, se c'è ancora tempo, che quest'anno è con noi Sabina Ciuffini, ex mitica valletta di Mike Bongiorno, in questa occasione invece come presidente di un'associazione che si sta occupando di donne ormai da tanto tempo, Una Qualunque per Tutti. Bene, allora Patrizia, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie mille. Ciao. A presto allora, ciao. Patrizia Rapazzo, direttrice della 21esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano. È cominciato tutto il 28 febbraio, andrà avanti fino al 23 marzo. Ben ritrovato Michele Citoni, ci sei? Sì, ciao, grazie Federico per l'invito. Allora, con te ci siamo sentiti in diverse occasioni, questa volta per il documentario fresco di presentazione, perché sarà oggi al Nuovo Cinema Aquila, Il futuro è troppo grande. Allora Michele, che cos'è questo nuovo lavoro? È un lavoro, diciamo, narrativo che segue per un anno e mezzo, due, la vita quotidiana di due giovani, un ragazzo e una ragazza che tra loro non si conoscono, e quindi ne segue appunto le vicissitudini quotidiane, la difficoltà di crescere, il rapporto con la famiglia, con l'ambiente in cui si trovano, il divertimento, il lavoro e lo studio, se non che sono due giovani che sono nati da famiglie non italiane. Lui si chiama Re Romolo Manuel ed è nato in Italia da una famiglia filippina, lei invece si chiama Zhong Jing, è venuta dalla Cina quando aveva 10 anni, seguendo i genitori che si erano già trasferiti in Italia. Quindi naturalmente è un film anche sui temi, i nodi dell'identità, dell'appartenenza e del rapporto tra queste seconde generazioni dell'immigrazione e la comunità italiana, perché in molte sue parti pretende di difendersi da qualche rischio immaginario, ma chiudendo le frontiere giuridiche dell'acquisizione della cittadinanza. Sì, quindi sì. C'è anche il tema, ovviamente, che da alcuni anni è molto dibattuto, della normative sull'acquisizione della cittadinanza, il dibattito da ius sanguinis e ius soli, però questo per noi è un dato del quadro. Non abbiamo fatto un film a tesi politica, quanto un film, appunto, come dicevo prima, narrativo, che mette in questo quadro due vite di giovani normali ma allo stesso tempo particolari. Oh, Michele, due cose. Prima, come è nato il progetto, l'idea, e poi come hai scelto questi due protagonisti? Sì, allora, siamo io e Giusy Buccheri, che ci conosciamo così per esperienze anche formative avute insieme nell'ambito della regia del documentario. Da tempo ragionavamo su fare qualche lavoro sulla questione della migrazione e delle seconde generazioni. Poi, diciamo, le questioni di attualità, come dicevo, appunto, il dibattito istituzionale, eccetera, spesso anche un po' fuorviato, tuttavia ci ha confermato che il tema fosse assolutamente maturo da affrontare. Poi uscivano anche altri lavori su questo, e quindi anche noi volevamo misurarci. E dopodiché, poi diciamo che anche nella nostra storia di vita e professionale, la questione delle migrazioni comunque torna per vari motivi, però diciamo, a un certo punto, mentre discutevamo di queste cose, cosa fare, in che modo indirizzare il nostro sguardo cinematografico, poi di fatto abbiamo incontrato due persone, e quindi un po' questo si lega alla seconda domanda, cioè cercando in rete, diciamo, tessendo relazioni con l'associazionismo di questo settore, eccetera, eccetera, a un certo punto abbiamo incontrato due storie. Due storie ci sono piaciute, scatta un innamoramento così anche poco razionale tra chi narra e chi a un certo punto diventa l'oggetto di questa narrazione, se non che poi a un certo punto questo oggetto diventa anche soggetto, perché in corso d'opera ci siamo resi conto che, inizialmente per una ragione di necessità, poi ci siamo resi conto della sua effettiva importanza e potenzialità, abbiamo deciso di introdurre elementi anche di autonarrazione, consegnando ai due nostri protagonisti delle telecamerine, e quella fine di un film, diciamo, a più sguardi, no, corale, in cui c'è il nostro dominamento e c'è l'autonarrazione dei due protagonisti che continuamente si alternano, con risultati anche interessanti, perché le due persone hanno due personalità differenti, e quindi questo guardano differentemente. Questo si vede molto nel tipo di materiale che ci hanno portato, no? Sì, rispecchia molto il modo diverso di stare al mondo tra i due. Insomma, questo è un elemento di dinamicità della narrazione, di complessità, che mi sembra un valore di quello che abbiamo fatto. Te la dico così in estrema sintesi, mi rendo conto che è complicato dirlo in poche parole, però la curiosità grossa che mi viene in mente pensando a questo lavoro è qual è il rapporto con le loro famiglie e con il paese in cui sono nati. Guarda, qui è appunto interessante, perché lo si può vedere sia da un versante, come dire, elettricizzante, sia invece liberarsi di un, diciamo, di un eccesso di sguardo categorizzante, e capire che poi alla fine il problema di come una persona che viene da una storia di immigrazione, in particolare Roma in Italia, ma comunque viene dall'immigrazione dei genitori, è una seconda generazione, e la comunità che accoglie è segnata dai temi e dalle problematiche, dai nodi che ognuno di noi trova nella sua esistenza, no? Per cui il rapporto con la famiglia, no, è un rapporto che ognuno dei due vive nella sua particolarità per le specifiche circostanze della propria storia personale, e solo in parte, certo c'è anche questo, ma solo in parte è condizionato da elementi culturali. Sì. Nel caso della ragazza Zhengjing ci sono più difficoltà di rapporto con i propri genitori, proprio nel senso che c'è un conflitto tra progetti di vita. Si vede invece nel caso di Re una famiglia estremamente unita, integrata, contenitiva, con relazioni di alta qualità. Nel caso della ragazza invece è più assente, però sono elementi della psicologia delle persone, insomma, no? Che si, bisognerebbe guardare non con, un, con uno sguardo eccessivamente, come dicevo prima, categorizzante, no? Ma con la libertà di sguardo a cui si guarda una storia di vita. Sì, sì. Oh, Michele, oggi al Nuovo Cinema Aquila l'anteprima, ti chiedo anche l'orario e poi cosa, sarà il percorso di questo vostro lavoro e se ci sono anche riferimenti internet. Allora, il sito naturalmente, il film si chiama Il futuro è troppo grande, il sito è www.ilfuturoetroppo senza l'aria sull'accento, ovviamente ilfuturoetroppogrande.it. Sì. Si trova anche il trailer e tutte le informazioni. Allora, stasera facciamo questa anteprima con due produzioni alle 8 e alle 22.30 al Nuovo Cinema Aquila a Roma. E, dopodiché, con certezza, saremo ai primi di maggio al Festival del Cinema dell'Asia, Africa, America Latina a Milano. Sì. E contemporaneamente stiamo cercando di mettere in piedi una, tra virgolette, distribuzione civile, cioè una tessitura di rapporti con sale, salette, associazioni, enti, eccetera, per una distribuzione in Italia. Sì, sì, sì, in questo momento ci saranno senz'altro a Roma anche una, già un altro paio di produzioni sono previste, ma i dettagli ancora non credo posso dare. Comunque abbiamo la pagina Facebook, Il futuro è troppo grande, il sito, e questo calendario sarà via via aggiornato. Bene. Naturalmente è la difficoltà che tutti sanno, no? Di fare, certo, circolare i documentari in Italia, e speriamo di dare il nostro contributo anche con circuitazioni alternative. Una cosa a questo proposito va ricordata: il film non sarebbe stato possibile senza non solo la coproduzione dell'associazione Griot di Bologna e del centro produzione audiovisivi dell'Università Roma 3 che ci ha dato l'attrezzatura, ma soprattutto di 254 persone qualsiasi, che noi chiamiamo produttori dal basso, che ci hanno dato il loro contributo anche se a scatola chiusa, perché evidentemente diciamo c'è curiosità per, sì, le sfide di un paese che sta cambiando, che ancora però non ragiona abbastanza sul suo stesso cambiamento. Bene, bene. Michele, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Va bene, grazie, ciao. Ciao Michele, ciao. Michele Citoni, regista del documentario Il futuro è troppo grande, oggi al Nuovo Cinema Aquila alle 20 e alle 22.30. Ilaria De Laurentiis insieme a Raffaele Brunetti, registi del documentario Ciò che mi nutre mi distrugge, che sarà presentato nella stessa data, il 15 marzo prossimo, in 7 città italiane. Ilaria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, benvenuto, grazie. Allora, Ciò che mi nutre mi distrugge, di cosa si tratta? Allora, si tratta di un documentario che si compone esclusivamente di riprese fatte durante le terapie individuali e familiari, seguendo 4 pazienti nell'arco di un anno, pazienti che soffrono di bulimia e anoressia. E, il film è quindi un film particolare proprio perché punta l'attenzione e cerca di restituire una immagine di questo problema solamente attraverso le sedute. Oh, perché questa scelta? Ma questa scelta nasce dal fatto che ci eravamo resi conto che per restituire un'immagine reale del problema era forse questa la strada più efficace, sentire le persone durante il loro, ascoltarle durante il loro percorso di cura. Probabilmente tutto quello che avevamo visto fino adesso in televisione o anche in altre occasioni spesso era pieno di sentimentalismo e immagini che non corrispondevano a quello che noi avevamo vissuto nella nostra esperienza personale, e quindi questa ci è sembrata la strada migliore. Oh, come vi siete avvicinati a queste 4 storie? Ci siamo avvicinati a queste 4 storie perché abbiamo avuto un'esperienza personale con nostro figlio e quindi siamo stati seguiti in un centro della ASL Roma E dopo il nostro percorso di cura abbiamo iniziato a pensare a un'idea di documentario. Ci occupiamo di documentari da diversi anni, abbiamo iniziato a pensare a un'idea di documentario e grazie al fatto che sia i medici che i pazienti che i familiari hanno accolto la nostra richiesta, che era molto alta, perché chiedevamo appunto di entrare con fare delle riprese in un momento di estrema fragilità in cui si esponevano le persone, e grazie al fatto che loro hanno accolto questa nostra idea siamo riusciti poi a realizzarlo. Oh, Ilaria, volevo chiederti anche cosa c'è in base anche all'esperienza che avete vissuto alla base di questi disturbi dell'alimentazione. Ma alla base di questi disturbi dell'alimentazione, per quanto quello che viene fuori apparentemente è un rapporto col cibo, in realtà non è limitato a questo, ma è un disturbo che coinvolge l'aspetto psichico, che è quello sostanzialmente più importante, quindi ed è per questo che anche le cure vanno affrontate in questo modo, quindi andando a cercare le ragioni e le origini di questo disturbo nella psiche delle persone. Questa iniziativa che vedrà il 15 marzo la proiezione del vostro lavoro in 7 città, come viene fuori? Beh, questa è un'iniziativa molto importante, e quest'anno è alla 3ª edizione e è una giornata dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, che è nata dal presidente dell'associazione di Minutro di Vita di Genova e che quest'anno appunto sarà presente in molte città, in 7 di queste verrà proiettato il documentario, e questa forse sarà l'occasione migliore per poterlo vedere, perché ci sarà poi lo spazio per discuterne con esperti e, nel caso di Roma, anche con i medici, i pazienti, i familiari che hanno preso parte al documentario. Un'altra curiosità sul fenomeno, cioè è in diffusione, e che fascia di popolazione, se hai queste più o meno indicativamente queste cifre, coinvolge, e se è trasversale anche per fasce sociali e territoriali? Sì, è sicuramente un fenomeno in grande espansione, e per quanto sia legato, diciamo, all'universo femminile, negli ultimi anni invece coinvolge anche la popolazione maschile, e le fasce di età sono molto ampie, perché questo problema sorge nell'infanzia, ma ci sono pazienti anche di età adulta, quindi sicuramente la fascia adolescenziale è quella più coinvolta. Comunque, insomma, è un fenomeno in grande espansione. Informazioni in rete sul vostro lavoro, anche rispetto alle prossime proiezioni, si possono trovare? Sì, allora c'è una pagina Facebook dedicata al documentario, che è Ciò che mi nutre mi distrugge, documentario, e c'è anche una pagina dedicata proprio al film, che è Ciò che mi nutre mi distrugge.com. Qui daremo tutti gli appuntamenti prossimi per le prossime proiezioni, e sicuramente quello più importante da non perdere è quello di sabato prossimo, il 15 marzo. Bene, Ilaria, io ti ringrazio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Ciao. Ilaria De Laurentiis con Raffaele Brunetti sono i registi del documentario Ciò che mi nutre mi distrugge, presentato sabato 15 marzo in 7 differenti città italiane. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E ritroviamo Fabrizio Boni, ben ritrovato. Ci sei? Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Ci eravamo sentiti, sono andato a scartabellare a giugno dello scorso anno, quindi è passato quasi un anno, il tuo film Space Metropolis, ero venuto a vederlo proprio al Metropolis, c'era questa presentazione serale molto partecipata e poi ha avuto tutta una vita, una sua vita, per cui ha girato parecchio. Sì, diciamo in un anno abbiamo fatto tantissime proiezioni un po' in tutta Italia, è stato anche all'estero, sta continuando a girare anche per festival e quindi insomma non abbiamo mai avuto una distribuzione reale in sala, però stiamo beneficiando di un forte interessamento sul film, sul progetto e su Metropolis, quindi insomma il film sta avendo la sua distribuzione spontanea, mettiamola così. Fabrizio, allora per chi ci ascolta, cosa racconta Space Metropolis? Allora, Space Metropolis è un film mio e di Giorgio De Finis, racconta l'occupazione del Metropolis, che è una fabbrica romana sulla via Prenestina, occupata dai blocchi precari metropolitani e da un gruppo di quasi 200 migranti e italiani senza casa, e racconta la loro storia attraverso però un escamotage narrativo, cioè noi siamo entrati lì dentro proponendo agli abitanti di costruire un razzo per andare a vivere sulla Luna, quindi di costruire un mezzo per sfuggire a quell'azione di, come dire, di espulsione, di rischio di sgombero, tutta, come dire, a quelle dinamiche che tendono a spingere queste persone, chi non ha una casa, chi non ha un lavoro, chi non ha il permesso di soggiorno, a spingerli sempre più fuori dalle città, fuori dai centri abitati, una sorta di autoesilio, di protesta dimostrativo per cercare di costruire una società nuova, una società meticcia sulla Luna. Ovviamente era una, come dire, una provocazione, un gioco che voleva portare in una fabbrica occupata in cui la dimensione del bisogno, della necessità è, come dire, la dimensione principale, abbiamo provato a portare la dimensione del sogno, dell'immaginazione, della fantasia. Ed è proprio quello l'aspetto che più colpisce del film, la capacità di sognare e il potenziale di immaginario che tutti e tutte hanno tirato fuori nella realizzazione di questo film. Sì, devo dire che con nostra grande sorpresa, visto che dall'inizio del progetto Giorgio ed io contemplavamo comunque il fallimento, era un'operazione, un tentativo, un esperimento, come per il quale era possibile anche che non accadesse nulla, e ci abbiamo messo un anno, abbiamo lavorato un anno dentro a Metropolis con tante persone che ci hanno aiutato, artisti e intellettuali che sono venuti da fuori a giocare con noi. Abbiamo anche scoperto che il tema della Luna, del viaggio nello spazio, era un tema veramente trasversale che univa generazioni, classici, interessava veramente chiunque, e piano piano è diventato un aspetto che Metropolis ha lentamente sposato, un immaginario intorno al quale Metropolis ha in parte costruito la propria identità di occupazione e di città meticcia. Tra l'altro adesso apro una parentesi, perché c'è una compagnia teatrale che lavora sia al Teatro Vascello qui a Roma che all'ex Cinema Palazzo occupato, e che si sono ritrovati ad esempio piuttosto in sintonia col vostro progetto, perché ne stanno realizzando uno simile con un laboratorio verso la fine di marzo, ma ne parleremo, nello spazio del teatro, dedicato proprio a un laboratorio di 3 giorni per diventare astronauti. Sì, ci siamo infatti sentiti, ci hanno scritto su Facebook, credo verranno martedì prossimo alla proiezione al Valle, e sì, ci siamo scritti, una cosa molto interessante, insomma, come dire, fa ritornare ciclicamente un interesse per una cosa che forse l'esplorazione e la conquista degli americani ci ha un po' sottratto, cioè quando si è arrivati sulla Luna abbiamo scoperto che poi alla fine era un sercio in mezzo allo spazio, si è smesso di sognare, e invece insomma è bello poterla ancora immaginare come uno spazio della fantasia, uno spazio della possibilità, uno spazio della conquista, insomma, è divertente che continuino a nascere idee intorno alla ipotetica conquista della Luna. Ecco, proprio a questo proposito, un po' ci hai parlato della realizzazione e il dopo questo viaggio, come è continuato? Mi hai parlato un po' del fatto che ha girato parecchio, ma com'è stata anche l'accoglienza? Ma allora, il film è stato accolto molto bene, con grandissimo interesse, sia per insomma come prodotto cinematografico, sia per il progetto che riesce a raccontare. Ha circolato molto anche nell'ambito dei comitati di lotta per la casa, quindi insomma sta servendo anche come esempio per molte altre realtà. Sì. Inoltre sta proseguendo l'esperienza, perché Giorgio De Finis da più di 2 anni sta continuando il lavoro a Metropolis e ha realizzato il MAM, ossia Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, portando decine e decine di artisti a lavorare dentro la fabbrica. Ha portato oggi Metropolis ad essere gemellata con la città dell'arte di Pistoletto. Pistoletto è venuto in visita a Metropolis a visitare il MAM. Stanno organizzando tantissime eventi, stanno arrivando veramente artisti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero, ed è diventato un centro di arte contemporanea molto, molto discusso, molto interessante, proprio perché in parte, non dico che compete, però insomma comunque mette in evidenza l'immobilismo di tante grosse macchine museali che abbiamo qui a Roma e che stentano anche solo a organizzare una mostra, mentre lì si organizzano eventi in continuazione e ogni giorno ci sono decine di artisti al lavoro. Ecco, un piccolo capolavoro che siete riusciti a realizzare è proprio questa fusione tra mondo dell'arte e mondo dei bisogni. Quello della casa è un bisogno primario e delle lotte. Ecco, come è stata questa fusione tra due realtà che spesso si comprendono anche poco, anche se poi si innervano l'un l'altra e uno invade gli spazi dell'altro e viceversa. Ma noi diciamo che per riuscire a convincere, piano piano, ripeto, abbiamo lavorato per un anno a Metropolis, per convincere gli abitanti a costruire un razzo per andare sulla Luna, quindi un oggetto assolutamente inutile per certi versi rispetto alle esigenze che può avere una persona che sta occupando uno spazio per poterci vivere, abbiamo portato dentro la fabbrica tantissime persone, abbiamo portato scienziati, filosofi, artisti concettuali, astronauti anche. Un astronauta vero, poi un astronauta è venuto, Umberto Guidoni, abbiamo portato ufologi radicali. Abbiamo capito tramite tutti questi incontri, che erano volti a parlare e esplorare le possibilità di immaginare un viaggio sulla Luna, abbiamo visto che il linguaggio dell'arte poteva essere il linguaggio giusto per non tanto per veicolare certi contenuti che noi avevamo già preventivamente immaginato di trasmettere agli abitanti, ma per innescare delle dinamiche che fossero del tutto impreviste. L'arte ha questa capacità essere completamente imprevedibile ed è riuscita a scardinare tanti meccanismi, anche tante dinamiche che a volte all'interno di queste realtà tendono un pochettino a sclerotizzare i processi e a confinarli poi in meccanismi marginali o comunque di pura antagonismo che non riesce però poi a sboccare altrove. Il tentativo non di sostituirci a loro, né di essere di fare il lavoro di assistenti sociali, né di voler comprendere fino in fondo tutto quello che li riguardava. Abbiamo invece voluto provare a far accadere lì dentro delle cose assolutamente inedite. Abbiamo capito che l'arte era lo strumento ideale per far accadere queste cose e soprattutto per portare lì dentro le persone, perché un'occupazione quando poi si trova costretta a chiudere i cancelli, a barricarsi, diventa poi, come dire, un autoesilio dentro uno spazio di esilio dentro la città. Il nostro progetto, il progetto che sta portando avanti adesso Giorgio con il MAM, è invece quello di rendere il Metropolis uno spazio completamente aperto e aperto in maniera trasversale a tutta la città. Sì. Fabrizio, il vostro razzo martedì atterrerà al Teatro Valle Occupato, martedì 18 marzo, all'interno di un'iniziativa, e raccontaci un po' di questa serata. Allora, siamo molto contenti innanzitutto di poter tornare al Valle, perché andammo al Valle durante la realizzazione del film per parlare del progetto. Sì. Siamo contenti di poter proiettare finalmente il film al Valle, perché è comunque un'occupazione che ci ha anche ispirato e ci ha dato anche, come dire, un po' di fiducia quando nel momento in cui stavamo iniziando il progetto. Nella serata ci saremo io e Giorgio, la serata inizierà alle 19 con un dibattito sul tema della lotta per la casa. Saranno presenti Paolo Di Vetta dei Blocchi Precari Metropolitani, che è l'organizzazione che ha occupato il Metropolis insieme agli abitanti. Ci saranno alcuni abitanti del Metropolis, dicevo appunto Giorgio ed io. Ci sarà Gian Maria Tosatti, che è stato il primo artista a realizzare la prima opera a Metropolis durante le riprese del film, e probabilmente saranno presenti anche altri artisti che oggi stanno lavorando al MAM. Quindi dalle 19 alle 21 ci sarà questo spazio di dibattito e di discussione. Alle 21 comincerà la proiezione del film. Bene. Fabrizio, allora ci vediamo al Valle Occupato martedì 18 marzo. Io ti abbraccio. Benissimo, grazie ancora. Vi aspettiamo martedì allora. Un saluto. Ciao, ciao. Fabrizio Bonico, regista del film Space Metropolis. Di nuovo, ripeto, al Teatro Valle Occupato martedì 18 marzo. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. In collegamento con Giovanni Cassinelli di High Moon Pictures sulla distribuzione del film Prossima fermata Fruitvale Station, in uscita in sala oggi giovedì 13 marzo. Giovanni, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, salve, buongiorno a tutti. Partiamo dal film. Cosa racconta questo titolo? Racconta una tragedia, essenzialmente. Sì. Una storia di pregiudizio e di abuso di potere che è portata, diciamo, all'estremo. Oh, si tratta, tutto questo avvenne negli Stati Uniti una notte di Capodanno ad Oakland, se non sbaglio. Un cittadino afroamericano, un giovane afroamericano, giovane ma già padre di famiglia, è ucciso con un colpo d'arma da fuoco a sangue freddo mentre era immobilizzato a terra. Sì, è una classica storia di, diciamo, poliziotto bianco WASP e giovane ragazzo nero, magari con qualche piccolo crimine alle spalle, ma cose minori, eccetera, che, diciamo, che perde, ecco, perde fino a perdere anche la vita in quell'occasione per un'ingiustizia. Sì. E viene raccontato, però, in particolare, secondo me, l'aspetto più azzeccato del racconto è come questo abuso di potere perpetrato dalle forze dell'ordine, che tra l'altro potrebbero essere anche paragonate alle nostre, ad alcuni casi tipo Cucchi e altri, eccetera, agiscano, cioè ciò che scatena il tutto, Michael direbbe triggers, è il pregiudizio. Sì. Cioè può essere il nero, può essere l'ebreo, può essere il gay, può essere il drogato, quel pregiudizio lì fa scatenare la violenza, almeno io così l'ho vissuto questo film. Sì, fa sì, scatenare sì. La forza di chi il potere ce l'ha in mano. Sì. Fino a un gesto estremo come quello che poi si mette in scena, che tra l'altro è realmente successo. Sì. Senti, no, dimmi. Vai, no, stavi continuando. No, questo voglio dire è anche un omaggio ovviamente alla vittima, cioè a un povero ragazzo di 22 anni, padre di famiglia e tutto quanto, che ha avuto un destino assurdo, atroce, cioè ingiustificabile anche. Sì, sì. Questo era, sì, sostanzialmente. Giovanni, secondo me una delle formule che hanno decretato, insomma, il fatto che sia un buon film è questa fusione tra finzione e documentario, perché il film si apre e si chiude con due immagini, con una serie di immagini, la prima realizzata proprio con telefoni portatili e che documenta questo abuso di potere, questo omicidio in divisa, e l'altro, quello finale, la figlia ormai cresciuta, perché ogni capodanno nel luogo si svolge una celebrazione per ricordare questo ragazzo. E anche lo stile del film ricorda un po' il documentario, e questo secondo me ha fatto sì che sia una formula accattivante di presa, anche non solo emotiva. Assolutamente, anche certe scelte estetiche del regista, a cominciare dal scelta della pellicola in qualche modo, che sì, è una pellicola abbastanza granulosa, il 16 mm, che diciamo ti porta a sentire un po' quel sapore di found footage, di cinema rubato, tra virgolette, di inquadrature mosse, eccetera. Ti spinge sicuramente nella direzione del documentario, di una specie di candid camera di una giornata di questa persona, e ovviamente unisce il rapporto, diciamo, tra il repertorio iniziale e finale che citavi, che tra l'altro noi abbiamo voluto lasciare in originale, e il film invece fictional, che è il corpo centrale del film. E l'altra cosa molto particolare di questo caso, per cui non si poteva non, almeno immagino nelle intenzioni del regista, non inserire quel con cui il film si apre, è perché di fatto i sono stati testimoni ti stiamo un po' perdendo, vai e vieni, come forse la posizione. Ho detto, sì, sì, ecco. Di fatto i telefonini sono stati i testimoni più reali e concreti, quasi più degli esseri umani, sì, sì, sì, di ciò che è avvenuto, perché quell'assassinio è stato letteralmente filmato. Sì, sì, sì, sì. E quindi questa testimonianza comunque non poteva non essere parte integrante del film. Sì. E in qualche forma l'abbiamo vista sia tra virgolette in originale, cioè con le riprese autentiche di quella notte tragica, sia con ovviamente la fictionalizzazione che magistralmente riprodotta da regista Ryan Coogler. Sì. Giovanni, raccontaci un po' anche la vostra esperienza di High Moon Pictures e di come siete vi siete incontrati con questo film e avete deciso di distribuirlo. Ma guarda, High Moon intanto sta per a breve cambiare nome in Wider, per diverse cose, vicissitudini, eccetera. Comunque noi ci siamo incontrati col film semplicemente perché appena abbiamo visto l'abbiamo amato, perché ha un attore straordinario, che non a caso qualcuno definisce il futuro Denzel Washington, e anche quando è venuto a Roma, tra l'altro, era di con i tuoi colleghi giornalisti, eccetera, è stato di un carisma diciamo travolgente, e poi perché questa esperienza High Moon Wider è un'esperienza di una piccola distribuzione, che qual è il nostro lavoro, oltre, diciamo, a tentare di magari guadagnare qualcosa, ma è di fondo di andare a cercare le storie, non so come dire, i temi, le storie, i giovani talenti che saranno grandi nel futuro, sì, e farcelo rubare fra qualche anno dalle major, cioè, un po' però è l'obiettivo di una piccola azienda come questa, cioè tentare di intercettare che cos'è il futuro, sì, quali sono le cose che dibatteremo fra qualche anno, o che saranno di rilievo, più topiche, più importanti, sì, per, sì. Ma non per me distributore, per il pubblico, per la pubblica opinione. Certo, anche. Certo. Giovanni, da oggi nelle sale in quante copie esce? Esce in 22 copie, sperando di allargarlo un pochino la settimana prossima. Bene, io ti ringrazio, a risentirci presto a questo punto. Spero molto presto. Ciao Giovanni. Ciao, auguri, buon lavoro. Anche a voi, ciao. Giovanni Cassinelli di IMU Pictures sulla distribuzione del film Prossima fermata Fruitvale Station, in sala oggi giovedì, da oggi giovedì 13 marzo. E ritroviamo Alberto Fassina, ci sei? Sì, ci sono. Di Partenos, per la distribuzione di Ida, del film Ida, in uscita in sala oggi, giovedì 13 marzo. Ben ritrovato Alberto. Salve a tutti, buon pomeriggio. Allora, raccontiamolo per chi ci sta ascoltando. Ida, cosa racconta? Allora, Ida è un film polacco di 85 minuti che in bianco e nero, con un formato classico 4/3 quadrato, dico tutte queste cose un po' per spaventare gli spettatori che sembra una cosa impossibile, in realtà è un film molto paradossalmente molto dinamico, in cui succedono moltissime cose. Il fatto principale che muove tutta la trama è quella di questa suora che si chiama Anna, che prima di ricevere i voti perenni la sua madre superiora le consiglia vivamente di andare a scoprire alcune cose legate alla sua famiglia. La prima cosa che scopre è che lei è ebrea, e da qui tutta una serie di eventi, di fatti, di rivelazioni più che colpi di scena costruiscono, diciamo, il tessuto secondo me molto magnetico di questo film, che appunto, dicevo, è girato in un bianco e nero splendido, dove secondo me la grande qualità proprio della pellicola è nella fotografia, nella messa in scena, cioè ogni scena, ogni sequenza è molto bella, voglio dire, proprio da vedere. E poi una trama appunto condensata in, ribadisco questa cosa, degli 85 minuti, perché sembra un film molto breve, dove paradossalmente può succedere poco, invece dove succede molto, per cui ci troviamo davanti a un film d'autore classico polacco, e tanto per citare, insomma, altri registi polacchi, da Kieslowski a Polanski a Zanussi, insomma il cinema polacco ha una tradizione di cinema d'autore molto, molto importante, e Ida entra proprio in questo solco, insomma, di un cinema d'autore importante, però assolutamente appunto accattivante e magnetico, insomma, secondo me, per cui lo spettatore assieme a Ida scopre molte cose, e molte di queste cose che vengono scoperte durante il film, secondo me, lo spettatore se le porterà un po' dentro per un po' di tempo, insomma. Sì, sì. Oltre alla grande eleganza formale, che sottoscrivo, è un elemento caratterizzante del film, ci sono anche vari altri aspetti, dal fermento giovanile legato soprattutto al jazz e al beat, erano gli inizi degli anni 60, esatto. E c'è anche la burocrazia di quello che era l'apparato del socialismo reale, e poi soprattutto quello che è stato il destino degli ebrei in nome di un cristianesimo che non ha esitato a farli fuori e a prendere i loro beni, insomma, sia per quanto riguarda i terreni che per i beni e per in denaro, insomma. Esatto, appunto, come dici tu, un po' legandomi a quello che dicevo prima, io oltre a questa trama che appunto è racchiusa in questa prima scoperta, il film tocca molti di questi aspetti, e lo fa in una maniera non direi, cioè, originale, perché non è l'aggettivo giusto, però molto intrigante, da appunto tutto il tessuto musicale, ad esempio jazz, beat, tutta una serie di riletture di classici che ti restituiscono insomma un'atmosfera dell'epoca, siamo negli anni 60, ad esempio a questo rapporto, non speculare, però molto molto diverso, insomma, questa dialettica che si instaura tra Ida e la sua unica parente in vita, che appunto che è Wanda, che è una zia, e non dico altro, insomma, su questo personaggio, però anche in quella direzione scopriremo delle cose legate appunto al conflitto, a quello che è successo nel passato, e a un certo punto ci sarà un musicista appunto che incrocerà la vita di Ida, per cui anche un aspetto più legato al tessuto culturale insomma del tempo, quindi è un film che si muove su tanti aspetti, e secondo me appunto è questa la sua forza, cioè di condensare in una storia apparentemente semplice molte questioni che, ripeto, poi secondo me lo spettatore elaborerà un po' nel tempo anche dopo la visione. Oh, rispetto invece al giovane cinema polacco e poi al fatto insomma che abbiate scelto di distribuire questo titolo, Alberto. Sì. Beh, allora diciamo, mettiamola così, la storia di Ida per noi è nata al Festival di Toronto, dove appunto abbiamo visto e acquistato il film al mercato, insomma Toronto è un festival mercato molto molto importante, e legato al nuovo cinema polacco, diciamo che non è che ci sia un'idea di riscoperto, di indagine, diciamo, per noi, sì. Su quel tipo di filmografia, diciamo che come Partenos al decimo ormai film che editiamo, cioè ci si innamora di alcuni personaggi, di alcune storie, e penso che ad esempio questo film per certi versi si lega anche a un film che avevamo in sala proprio un anno fa, che era Come pietra paziente, dove anche lì c'era era un film girato in Afghanistan, molto tosto, no? Però questa figura di donna insomma in qualche maniera riusciva a rendere tutto molto molto intrigante e interessante, quindi diciamo che Ida si colloca per noi in un percorso di voler fare insomma una library di cinema d'autore, però cinema anche non del tutto ostico, cioè anche di un cinema che possa parlare a un pubblico vasto, non soltanto di nicchia, ma non soltanto di nicchia. Io ad esempio, che tra le varie cose dirigo anche una multisala a Padova, ho scoperto, insomma, sono stato felicemente sorpreso dal fatto che da un mese noi ovviamente abbiamo il trailer di Ida, no? Assieme a tanti altri trailer, e il pubblico già soltanto dal trailer, da queste immagini, da questo titolo, dalla locandina così in qualche maniera evocativa, intrigante, anche per certi versi sensuale, insomma è già stato catturato insomma da questa storia, da questa atmosfera, per cui il cinema d'autore polacco, il cinema giovane, insomma, può essere anche che abbia una pilla che andremo a scoprire adesso nei prossimi giorni, a partire da oggi, visto che il film arriva in sala, se non sbaglio a Roma addirittura in tre situazioni, in tre sale, e per cui scopriremo da oggi se il cinema appunto polacco ha ancora un suo fascino importante come l'ha avuto nel passato. In quante copie in Italia? Usiamo in 44 copie, se non sbaglio, che per noi insomma è un bel risultato, perché ormai sul mercato cinematografico d'autore non è niente scontato, no? Certo, non si dà niente per scontato, per cui il fatto di poter uscire con questo numero di copie, di avere anche oggi insomma da un'occhiata un'ottima rassegna stampa, sono tutti bei segnali, insomma, che ci fanno ben sperare, che penso anche che proprio il film in sé, Ida, se lo merita, perché è un film, ripeto, intrigante, magnetico, un film, insomma, di quel cinema d'autore che però continua a lavorare, insomma, nel tempo anche dopo la visione. Sì, sì. Alberto, io ti ringrazio, a risentirci. Grazie alla prossima. A voi. A presto. Ciao. Ciao. Alberto Fassina di Partenos per la distribuzione di Ida, in film in uscita in sala oggi giovedì 13 marzo. Ben ritrovata Livia Parisi, eccoci qui. Ci sì, sei? Ciao, oh. Un saluto a te Federico, un saluto a chi è in ascolto. Allora, questo appuntamento con te per parlare della nuova data per Palestina per principianti al Cine Club de Tour domani 14 marzo, un appuntamento piuttosto ricco, vero Livia? Sì, sì, l'appuntamento per domani è il quarto della seconda edizione di Palestina per principianti, che, come ormai sa chi ci ascolta, è una rassegna che la Rete Romana di Solidarietà col Popolo Palestinese sta organizzando ormai già dallo scorso anno insieme al Cine Club di Tor di Monti, per mantenere alta l'attenzione sulla situazione nei territori occupati palestinesi, su, diciamo, la situazione di soprusi quotidiani che vivono i palestinesi. L'appuntamento di domani nello specifico è a cavallo tra la cinematografia e il fumetto e la vignettistica. Infatti proiettiamo un film documentario molto bello che racconta la vita di Nasi Alal. Probabilmente ne avrete sentito parlare, o se non conoscete il nome comunque conoscete la sua creatura, che è questo personaggio di fumetti, Andala, il famoso bambino rappresentato di spalle, che rappresenta un po' la Palestina, ed è girato di spalle questo bambino proprio a simboleggiare che la Palestina, alla Palestina tutto il mondo volta le spalle. In questo stesso modo questo bambino volta le spalle al mondo e si girerà solo nel momento in cui avrà diritto a tornare simbolicamente nella terra da cui proviene. Rappresenta un po' i profughi palestinesi che dal 48 in poi sono stati sparsi per tutto il mondo, in particolare ovviamente nei territori dei paesi confinanti con la Palestina. Questo film si intitola Nasi Alal, un artista visionario. Infatti questo Nasi Alal è stato uno dei più grandi vignettisti dei paesi arabi, forse il più grande, insomma, un po' conosciuto come il Malcolm X palestinese, molto molto popolare tutt'oggi nonostante sia morto già da diversi anni. E tra l'altro è morto a Londra dopo una vita da profugo, prima in Libano, poi in Kuwait, poi anche in Inghilterra. È stato ucciso da mano tuttora ignota, sono state fatte varie ipotesi sul suo omicidio. Di certo è stato un uomo, diciamo un artista politico che è stato scomodo un po' per tutti, insomma israeliani e palestinesi, perché poi nella sua arte ha raccontato con la leggerezza veramente dei disegni, delle scene di vita strazianti sostanzialmente. È morto dopo cinque settimane di coma. Questo appuntamento proprio con il film, che lo ricordo è del regista Abid Kassim, che è un iracheno, sarà in lingua originale con i sottotitoli in italiano, ed è una produzione libanese. Sarà preceduto, verrà proiettato intorno alle 9, 9, 9:30, insomma con una certa elasticità, perché sarà preceduto, come spesso facciamo in occasione di questi eventi, da una pericena palestinese ad offerta libera, e ovviamente il devoluto andrà a sostegno della rete, in particolare del progetto cinema della rete, che prevede appunto la diffusione di opere cinematografiche e documentarie in diversi posti, per cercare di aumentare la fruibilità proprio di questo tema anche da parte di chi magari non è direttamente sensibile alla causa palestinese. Quindi questa pericena si terrà nel foyer del Betur, che tra l'altro è stato ristrutturato e adesso ha un bar interno molto molto comodo. E a seguire ci sarà diciamo la proiezione di un breve video reportage, quindi prima del documentario vero e proprio ci sarà anche un altro video reportage, insomma, della durata di una ventina di minuti. Si titola Della città di Dio, lamento a più voci per la sorte di Andala. E in questo caso è una produzione italiana, era un DVD uscito con il Manifesto Libri, è un'opera di Giovanni Conforto e raccoglie le esperienze di un gruppo di attori musicisti provenienti da Roma e da Londra, impegnati a Betlemme in una sorta di laboratorio teatrale con i bambini, quindi diciamo resta il tema dei bambini, così come Andala in qualche modo, quindi sì, gli occhi sì, dei sì, bambini sì. Per leggere, insomma, la situazione palestinese. Bene, Livia, ci ricordi la data, che è domani, gli orari, la e poi anche domani. Un riferimento internet per sapere di più sia sulla rassegna completa sia sull'appuntamento specifico e dei titoli di domani. Sì, dunque, allora, insomma, come dicevo, l'appuntamento per l'aperitivo è alle ore 20, a seguire il videoreportage e poi il documentario. L'indirizzo è via Urbana numero 107 a Monti, per chi non lo sapesse, e si può controllare tutto sia sul sito internet che sulla pagina Facebook del Detour, e dunque all'indirizzo www.cineclubdetour.it e comunque sulla pagina Facebook della Rete Romana di Solidarietà con il popolo palestinese troverete anche, insomma, gli appuntamenti sia per questo venerdì sia quelli per il mese successivo, perché lo ricordo, questo è un appuntamento che si tiene tutti i mesi, e quindi il prossimo mese avremo in programma, forse tornerà a Roma Five Broken Camera, insomma, che è un titolo, avremo modo di riparlarne, è passato per Roma alla Casa del Cinema, ha avuto un grandissimo successo, vediamo se riusciamo a riproiettarlo. Livia, io ti abbraccio, a risentirci alla prossima. A voi un saluto grande, buona giornata. Ciao. Livia Parisi per il nuovo appuntamento con Palestina per principianti, domani al Cineclub Detour, domani venerdì 14 marzo. E un ben ritrovato anche a Fabrizio Ferrari, direttore della 13ª edizione del Rome Independent Film Festival, il nuovo cinema Aquila, a partire dal 16 fino al 23 marzo. E ben ritrovato, caro. Grazie a voi, ben ritrovati. Allora, 13ª edizione, scaramanticamente, di cosa si tratta? A me sembra il 13 porti fortuna. Esatto, no? Esatto. Porta gli anche se per gli angloamericani anche il 13 porta, non lo so, comunque sì. Per noi è fortunato. La 13ª edizione, abbiamo anche tanti horror e tanti thriller, quindi siamo in tema con l'edizione. Partiamo domenica con 108 film in programma fino a domenica 23. Chiudiamo con Franco Battiato, Temporary Road, e apriamo invece con Minnie Driver, un film americano che si intitola Return to Zero. Allora, tutti i film sono in anteprima europea o mondiale. Allora, a questo proposito ti chiedo, quante sono le opere che presenterete e più o meno da quanti paesi? Allora, i paesi non li ho contati, dovete scusare, no, però siamo sui 35-40 paesi. Bene. Le opere sono 108. Sono 6 lungometraggi italiani, 12 documentari italiani e un 30 cortometraggi. Tutto il resto, gli altri 60 titoli in programma, sono tutti stranieri, dall'Europa, dall'America, dalle Filippine, dal Canada, insomma un po' da tutto il mondo. Ecco, quest'anno direi, rispetto agli altri anni, è presente la Corea, il Giappone, le Filippine, insomma un programma che abbiamo visto anche in conferenza stampa quando abbiamo presentato il festival, molto vario, con dei generi che vanno dalla giustizia, dall'ambiente, dall'ecologia, a tantissime, sono anche le registe, il mondo femminile che partecipa a questa 13ª edizione, con tantissime registe emergenti. Oh, Fabrizio, è prevista anche la presenza di ospiti degli autori, e poi come più o meno indicativamente come è strutturato il festival, per sezioni e anche una giornata tipo, come è organizzata? Abbiamo cercato di programmare i cortometraggi e i documentari nel pomeriggio, ovvero la proiezione delle 4:30 e delle 18:30, mentre invece i lungometraggi stranieri sono tutti alle 20:20, e invece i lunghi italiani, i 6 lunghi italiani, uno a sera alle 22:30. Poi ecco, domenica per esempio l'apertura, abbiamo una serie di cortometraggi italiani che verranno a presentare i loro film dalle 4:30, dalle 16:30 ci sarà la possibilità di conoscere i registi, di far domande e risposte con loro e anche con i registi stranieri che sono numerosissimi quest'anno. Bene, per quanto riguarda il programma e anche tutti gli altri tipi di informazioni, ci dai dei riferimenti internet, Fabrizio? Sì, guarda, sul nostro sito riff.it c'è il programma dettagliato con le schede dei film, le foto, i trailer. Potete anche visionare con questo nuovo portale che abbiamo lanciato durante il festival, che si chiama ronfilmmarket.com, qui la sezione fuori concorso, in cui avremo Gilberto Gil, un viaggio musicale di Ramundo, il titolo del documentario, e anche Il sole per lanterne, e poi una serie di cortometraggi fuori concorso che saranno visibili in streaming on demand sul portale ronfilmmarket.com. Quindi ecco, per gli appassionati del web c'è tantissima scelta e possibilità di vedere quello che è in programma. Fabrizio, in chiusura, visto che si tratta della 13ª edizione, volevo chiederti un po' un bilancio di questa esperienza e che percorsi ha intrapreso. Ma il bilancio è positivo, il festival è fatto dai film che partecipano, abbiamo quest'anno ha avuto un record di iscrizioni, circa 1600 titoli rispetto ai 1100 dello scorso anno, quindi un 30% in più di film, è incredibile, abbiamo passato veramente 2 mesi a selezionare, notevoli il numero dei documentari italiani, ben 14 rispetto ai 8 o i 10 dello scorso anno. Ma il bilancio è tutto positivo, il cinema indipendente sta andando benissimo, l'abbiamo visto anche con le uscite in sala che hanno avuto i film che hanno vinto o hanno partecipato al RIF lo scorso anno, è un'uscita, per esempio 2 dei titoli che abbiamo presentato lo scorso anno usciranno adesso in sala, è un bilancio positivo quello del cinema indipendente, è da tenere d'occhio e noi proponiamo nuove scoperte, nuovi registi e speriamo che poi diventino insomma importanti e famosi come è successo per le scorse edizioni. 5 anni fa presentammo Hunger di Sidney Queen, che è uscito in sala lo scorso anno, ha avuto un grandissimo successo alla mostra del cinema di Venezia, quindi cerchiamo di scoprire e di presentare autori emergenti. Bene, allora un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, grazie mille, ci vediamo a RIF, allora al Cinema Aquila. Ciao, ciao Fabrizio, ciao. Ciao. Fabrizio Ferrari, direttore della 13ª edizione del Rome Independent Film Festival al nuovo Cinema Aquila dal 16 al 23 marzo. È con noi Giancarlo Bocchi, regista del documentario La piccola guerrigliera, che dopo una presentazione internazionale in Italia sarà presentato proprio al Rome Independent Film Festival qui a Roma, al nuovo Cinema Aquila, il 18 marzo prossimo, cioè martedì. Giancarlo, ben ritrovato. Ciao a tutti. Allora, noi ci siamo conosciuti più volte telefonicamente, poi ci siamo visti di persona per una proiezione al Teatro Valle Occupato. Ora torni con un nuovo lavoro, La piccola guerrigliera. Raccontacelo un po'. Ma sì, è un lavoro su questo movimento di liberazione del popolo Karen, che praticamente combattono ininterrottamente dal 1941, prima per combattere i giapponesi che avevano invaso il loro territorio e subito dopo l'indipendenza della Birmania dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, per combattere i generali che non gli garantivano nessun diritto, insomma. Quindi è la più lunga guerra della storia contemporanea. Questa guerra viene combattuta in un territorio terribile, che è questa giungla che va dal confine della Thailandia, al mare di Andaman. E la storia che racconto è la storia di una ragazza di questo popolo che ha vissuto fino a 14 anni nella giungla, dopodiché il suo villaggio è stato attaccato più volte, è bruciato, è andata nei campi profughi e poi espatriata in Inghilterra. Nel frattempo il padre, che era diventato il comandante, il capo politico del popolo Karen, è stato ucciso da dei sicari dei generali birmani. Quindi lei è tornata, torna spesso fra il suo popolo per continuare la resistenza. Questa è anche una storia che vuole mettere in luce tutta la nebbia nella quale è avvolta tutta la vicenda birmana dei presunti accordi di pacificazione fra i militari e Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi è una donna coraggiosa, valorosa, ma credo che la sua politica non porterà nulla. Giancarlo, come sei venuto a conoscenza di questo conflitto e poi come hai deciso poi di raccontarlo in un documentario? Sono venuto a conoscenza così, parlando con degli amici che seguivano le vicende asiatiche, e poi ho trovato che questo conflitto aveva questa particolarità di una serie di donne che erano in prima linea, diciamo, a combattere sia politicamente sia con le armi il regime dittatoriale birmano, perché non c'è soltanto Aung San Suu Kyi, c'è Sharm Thom del popolo Shan, c'è Zifora Sein, c'è appunto Zoya Phan, che è la protagonista del mio documentario. Venendo da documentari molto complessi come quello in Cecenia o quelli in Afghanistan o nei Balcani, pensavo che questa cosa fosse più agevole. In realtà ci sono voluti 3 anni per fare questo documentario, perché la situazione era veramente molto complessa, soprattutto dal punto di vista politico. Sono entrato varie volte clandestinamente in Birmania e ho incontrato ovviamente i vari esponenti della guerriglia. Giancarlo, oltre alla presenza importante femminile, questa guerriglia politicamente e socialmente come si caratterizza? Quali sono i pregi della loro esperienza? Ma guarda, è un popolo molto coraggioso. Purtroppo la Birmania ultimamente ha avuto, oltre che alcuni tifoni, la sciagura di avere Piero Fassino come rappresentante dell'Unione Europea, che ha fatto soltanto dei disastri. E adesso fra il popolo Karen c'è un altro segnale molto pericoloso: l'infiltrazione attraverso un colonnello dell'esercito di liberazione Karen di frange estremiste di destra, della destra italiana. Quindi è un popolo che si deve difendere da più parti. Senti, poi la cosa importante è che, diciamo, anche sono riuscito a filmare una cosa che è veramente straordinaria e inedita, che è questa scuola di guerriglia in mezzo alla giungla, che non sono i campi militari del Sud America o della Palestina. È proprio una cosa curiosa, perché c'è una specie di grande villaggio tipo università dove ci sono questo addestramento di questi ufficiali dell'esercito Karen. Un'altra cosa che volevo chiederti, ecco, proprio in base alla domanda che ti ho fatto prima: che tipo di organizzazione sociale prefigurano e praticano? Ma loro vogliono l'indipendenza o comunque un'autonomia, e prefigurano un governo democratico eletto dal popolo. Loro chiamano fascisti, col termine italiano, i generali birmani sono in gran parte, come dire, di orientamento progressista, insomma. Ecco. Il fatto è che vivono in una condizione terribile, perché hanno 300.000 profughi sul confine con la Thailandia, che vivono distenti, e questa giungla è terribile, è veramente un'arma potentissima contro il nemico, ma anche un'arma potentissima contro di loro, insomma, perché vivere lì è veramente molto pesante. Devo anche dire che sto preparando una serie di articoli sempre sulla Birmania, perché ho scoperto che alcuni industriali e banchieri si sono messi in affari con i generali birmani. Questo è molto grave, perché comunque i generali birmani, malgrado l'apertura così di credito, secondo me sbagliata, che gli ha dato Obama e anche Aung San Suu Kyi, rimangono e sono dei criminali di guerra, mm-hmm. e come tali dovrebbero essere trattati dalla comunità internazionale. Mm-hmm. Oh, Giancarlo, la guerriglia in che rapporti è con la popolazione? Rappresentano una piccola avanguardia o cosa? No. La guerriglia e la popolazione sono la stessa cosa. Okay. Ogni famiglia fornisce alla guerriglia almeno uno o due maschi, o anche, ci sono anche le donne, insomma, quindi è tutt'uno. Ovviamente il popolo Karen è stato diviso artificiosamente dai servizi segreti birmani in un gruppo, cioè, quelli che ha sempre combattuto, diciamo, dalla parte del movimento di liberazione sono sempre stati gli animisti e i cristiani, che sono soprattutto evangelici. Poi c'era anche una parte del popolo Karen che era buddista. Ecco, alcuni anni fa i capi di questa frangia sono pagati dai generali birmani, si sono staccati e hanno cominciato a fare una loro guerra personale contro i loro stessi compagni, e adesso però si sono riunificati, quindi il problema è che con questa pacificazione presunta tale, voluta da Aung San Suu Kyi, dai militari, sono cambiati i dirigenti del movimento di liberazione e sono andati al potere tra il popolo Karen alcuni vecchi arnesi del militarismo, che sono probabilmente in contatto con i generali birmani. Mm-hmm. Quindi ci si aspetta che presto ci sia anche un nuovo cambiamento, ritornino Sifora Sein, che è questa donna che ha diretto il movimento fino a un anno fa, che ha delle idee molto precise anche sul processo di pacificazione. Comunque la Birmania è una fetta di prosciutto fra le fauci della Cina e dell'India, mm-hmm. che aspirano alle sue ricchezze sia di energetiche che naturali, mm-hmm. e lì si giocano, c'è un quadro geopolitico molto complesso dove si sono inseriti gli americani, e tutto questo sovrasta, diciamo, le popolazioni e le etnie birmane. Tutti i giorni ci sono notizie di ammazzamenti, di villaggi bruciati, di gente deportata, ma questo arriva proprio nelle notizie nascoste dei giornali, perché si parla solamente di questo difficile processo di pace. Ma io credo che non ci possa essere giustizia, non ci possa essere pace senza giustizia. Certo. E questo fatto è evidente, adesso sta ritornando in tutta evidenza anche in Bosnia, no? Mm-hmm. Con i recenti sommovimenti contro la casta al potere. Sì. Giancarlo, dopo questa anteprima romana, questa presentazione ufficiale, ci saranno altre date? Immagino, ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, c'è una pagina su Facebook che è La Piccola Guerrigliera. Allora, 5 giorni fa il documentario è stato presentato in anteprima mondiale al One World Film Festival di Praga, che è il festival più importante sui diritti umani. E martedì 18 alle ore 22 viene presentato in anteprima italiana alla RIF, Roma Independent Film Festival, al cinema, Nuovo Cinema L'Aquila. E il 26 di marzo viene presentato a Bruxelles dall'interno di una rassegna di film, di 15 film più importanti sui diritti umani di quest'anno viene presentato alla Commissione europea dalla delegazione norvegese. È stato anche invitato proprio in questi giorni sia a Tokyo che a Los Angeles, quindi c'è un grande interesse. Bene, bene. Ecco. Giancarlo, io ti abbraccio. Anche se nato fra grandi problematiche, grandi... Immagino, sì, sì. Come al solito. Ci risentiamo presto, un abbraccio e in bocca al lupo per questa... Posso dire un'ultima cosa? Come no? Che insomma sono ormai tanti anni che difendo le minoranze etniche, però io come documentarista italiano sono diventato una minoranza etnica. Quindi prima o poi dovrò difendere me stesso e gli altri documentaristi dalla RAI e da tutte le istituzioni che non fanno il loro mestiere. Sì. Giancarlo, ti abbraccio e a presto. Grazie, ciao. Ciao. Giancarlo Bocchi, regista del documentario La piccola guerrigliera. È tutto per Visionari di questa settimana. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Per saperne di più, la scaletta la trovate, altre informazioni le trovate sul sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, idem per la pagina Facebook, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.